capito quando le serve. Io praticamente sono nato dentro i cantieri. Sì, dentro. Mi portava mio padre da quando ero bambino. Io ci andavo volentieri, lui mi sistemava da qualche parte. E quando poi terminava la giornata di lavoro mi riportava a casa. Una volta addirittura mi ha lasciato dentro una vasca da bagno. Si è scordato di me. E solo dopo essere tornato a casa è corso indietro a riprendermi. Io ero rimasto lì buono buono, come se quello in qualche modo fosse il mio vero posto. Porta le quattro sacche! Va bene, ci vado subito! Del cantiere mi piaceva l'odore, la gente che ci lavorava, vedere che le cose crescevano giorno dopo giorno, grazie alla fatica di tutti. Sono nato in Calabria, a Catanzaro, 1959, ma sono cresciuto a Serra San Bruno, una zona montuosa al centro della Calabria. Mio padre si chiamava Francesco, Ciccio. E c'è, Pino! Papà, guarda, faccio scaricare il ferro! Ciccio Catanzarisi, e perché venivamo tutti da Catanzaro. Ha tirato su paesi interi con la sua azienda, ha fatto lavorare centinaia di persone. Io lo guardavo e lo ammiravo. Mi riempiva d'orgoglio stare con mio padre. Sono cresciuto lavorando io. E quando mi diplomai geometra, per me non cambiò nulla. Semplicemente mi potevo dedicare ai cantieri per tutta la giornata. E a 23 anni sono entrato ufficialmente in società con mio padre. Con lui ci occupavamo di costruzioni civili. Avevamo a che fare principalmente con i privati. Ma io volevo fare anche altro. Volevo fare di più. E allora ho fondato una nuova azienda. La mia azienda. Nata proprio per seguire gli appalti pubblici. È solo con il pubblico che puoi arrivare ai grandi appalti, guadagnare bene, costruire grandi opere, avere un ruolo importante anche nella società. E poi noi avevamo già tutto, attrezzature e mezzi per fare i lavori grossi. Avevamo betoniere, camion, escavatori. La nostra azienda in Calabria era già strutturata per fare il grande passo. Poi però mio padre si è ammalato e poco dopo è morto. Era il 1988. Non ebbi neppure il tempo di piangerlo io, perché mi dovevo prendere la responsabilità di tutta la famiglia. Siamo nove noi, tra fratelli e sorelle. Io sono il più vecchio e badavo a tutti. Lavoravo anche 20 ore al giorno quando ce n'era bisogno. Non c'erano in tutta la Calabria aziende come le mie. Dopo i primi appalti a Mongiana, in Calabria, mi ero spostato nelle altre regioni d'Italia. E quando cadde il muro di Berlino andai in Germania, nell'ex blocco sovietico. Perché lì c'era un mondo che nasceva. C'erano appalti, lavori, possibilità, la gente mi voleva bene. Tutti mi cercavano. La mia azienda dava lavoro in un territorio che aveva estremamente bisogno di muovere l'economia. E io ero felice di creare lavoro per la mia terra. Ma di una cosa non si parlava mai nella mia terra. D'Ndrangheta non esisteva, non veniva nominata. Seppur così visibile e schiacciante, non doveva comparire mai. Eppure c'era. E faceva sentire la sua presenza sul territorio in quegli anni attraverso i sequestri di persona. Era un modo per recuperare denaro contante da investire in stupefacenti. Cocaina, il primo e più grande traffico della malavita organizzata calabrese. Ed è ciò che ha permesso alla 'Ndrangheta di diventare la mafia più potente al mondo. Nel periodo dei sequestri l'intero paese veniva militarizzato. Arrivava l'esercito a farci vedere che non eravamo abbandonati. Faceva la sua bella figura per strada. Ma il clima non cambiava. La Calabria rimaneva muta, apparentemente lontana dalla criminalità, ma profondamente pervasa. Era la mentalità a essere sbagliata. Se non pagavi le tasse, non succedeva nulla, nessuno ti veniva ad arrestare. Al limite, poi, ci sarebbe stato un condono. Ma se non pagavi certa gente, beh, allora là era diverso. Perché loro venivano, chiedevano e pretendevano. Minacciavano gli imprenditori, facevano sequestri lampo, mettevano bombe. Ti potevano anche ammazzare, come spesso è successo. Sempre per colpa delle femmine. Sempre per colpa delle femmine. Sono stati tanti in quegli anni gli omicidi di amministratori locali, tecnici comunali, avvocati, gente comune, fatti passare tutti come delitti passionali, tutti. Quello aveva l'amante, è stato il marito di lei, sicuro. Ma quelle erano persone che avevano deciso di dire no e alzare la testa. Guarda che l'avvocato era una brava persona, si sapeva in paese. Sì, ma gli piacevano le femmine, lo sapevano tutti. Il marito è venuto a saperlo e è andato a finire così. Questione di donne, si diceva, per tacere qualcosa che non si doveva nemmeno pronunciare, qualcosa di spaventoso. Quelli erano morti di 'ndrangheta. Ma che è questa 'ndrangheta? Ma dove la vedi? Questo era il clima che mi circondava negli anni Ottanta ed è quello che circonda ogni imprenditore calabrese. Un ambiente fatto di persone che ti chiedono regali, favori, che fanno sentire la propria presenza sul territorio come una morsa, che giorno dopo giorno si stringe. Si partiva dalla richiesta di assumere un manovale piuttosto che un altro, così, come un atto dovuto. È un bravo ragazzo, gli dobbiamo dare una mano. Si è appena fatto 17 anni di galera e ha proprio voglia di lavorare. Bene. E gli è venuta proprio oggi la voglia di lavorare? Per passare poi a richieste più pressanti, come la scelta dei vari fornitori. Sembrava essere un consiglio. Un consiglio non era. Poi c'erano richieste più particolari. Mascheri, mi serve un alloggio. No, te lo posso pagare la metà di quello che mi stai chiedendo. E te lo pago in 5 anni. Alla fine non te lo pagavano proprio. Che vuoi che sia, Mascheri? Un favore, non si nega a nessuno. E certo, erano, come si può dire, richieste da cattivi pagatori. Chiamiamole così. Mascheri, sì? Abbiamo partecipato all'appalto a Montepaone. Sì. Speriamo bene. Ma da quando cominciai ad occuparmi di appalti pubblici le cose presero un'altra piega. Peggiorarono. Le richieste aumentavano, si facevano vedere ogni giorno, chiedevano e pretendevano. Abbiamo vinto l'appalto a Mongiana. A posto. Stanno andando bene le cose, eh? Ma raccomando. Quegli stessi personaggi che mi minacciavano sul lavoro me li ritrovavo ovunque andassi. Al bar, per strada, comparivano e sparivano. Ci tenevano a farmi sapere che loro erano ben informati su tutti i miei movimenti. Mascheri! Sì? Domani arrivano i soldi in banca, eh? A posto. Attenzione però, che si possono perdere per strada e non arrivano in tempo. E poi come facciamo a continuare? La loro onnipotenza, questi te la sbattevano in faccia tutti i giorni. Dov'è il signor Mascheri? Sono qua, chi è? Signor Mascheri, che facciamo? Che facciamo? Lavoriamo, che altro dovremmo fare? Ve lo venite a prendere un caffè? No, grazie, non bevo caffè e poi ho da lavorare. Avanti, un caffè, che vi faccio perdere? 2 minuti, su, andiamo. Vi sto dicendo che non ho tempo, cosa volete? Ma che, niente vi hanno detto? No, niente mi hanno detto. Non ve l'hanno detto che cerchiamo il responsabile di questo cantiere? E come non lo sapete chi è il responsabile? Qua io sono il responsabile. Io ci lavoro, io ci vivo qua dentro. E che ve l'ha data questa carica? Come che me l'ha data? L'azienda mia me la dà la carica, chi me la deve dare? Allora facciamo una cosa. Voi ci date il 3% di tutto l'appalto e potete stare tranquilli. Ma che cosa state dicendo? Se volete lavorare, dovete pagare. Ma io non vi do una lira altro che 3%. Ora cercate di lasciarmi lavorare, che tempo da perdere. Sia tranquillo, signor Mascheri. Ma che cosa volete? Nell'ultimo cantiere mi avete chiesto una mano d'aiuto, mi sembra che ve l'ho data, no? Qualcuno lo sto facendo lavorare. Persone che non si presentano al mattino e pretendono lo stipendio. Questo mi sembra già abbastanza. Ora cercate di andarvene, che vi sto dicendo che tempo da perdere, io non ne ho. Visto che le cose stanno così, facciamo una cosa. Voi non solo ci date il 3% sull'appalto che sta per finire, ma ci date il 3% su tutti gli altri appalti che avete già finito. Io non vi do una lira se non l'avete capito. Ora vi alzate con le vostre gambe e uscite da qua dentro e ve ne dovete andare via subito. Se non pagate vi bruceremo tutto. Avete 48 ore. Guardate che se toccate una sola delle mie macchine è come se toccaste me direttamente, sappiatelo. Signor Mascheri, questo non è da escludere. Quella notte, come molte altre notti, la passai dentro il cantiere ad aspettare che succedesse qualcosa. La passai a pregare che non arrivassero per distruggere tutto, come avevano promesso di fare. A dare loro le informazioni su tutti i miei lavori era stato il mio autista, Antonio. A vendermi quella volta era stata una persona che avevo avuto a mio fianco e di cui mi fidavo. Nei piccoli paesi tutti sanno tutto, di tutti. Si sa chi ha avuto problemi, chi è colluso, chi è legato a qualche malaffare, chi frequenta chi. In certi posti segreti si sanno più che altrove, ma si tacciono a volte, perché altre volte invece si vendono, si devono vendere, perché a comandare è una sola legge, quella della paura. Pino, sì? Vedi che quell'appalto assoverato a cui hai partecipato non te lo faranno prendere. Assoverato vinse un appalto per la costruzione di 62 palazzine popolari. Guarda che l'appalto l'ho già vinto. Devo firmare le ultime carte e posso cominciare a costruire. È tutto pronto. E Pino, quelle 62 palazzine non te la faranno costruire. Ma ti sto dicendo che l'appalto io l'ho già vinto. È tutto pronto. Pino, ti dico che quell'appalto non te lo danno perché c'è una clausola nel bando che dice che se anche tu hai vinto la gara, l'ente per la costruzione delle case popolari può scegliere l'impresa che vuole. E allora che l'hanno fatto a fare l'appalto se sanno già chi lo deve vincere? E lo fanno perché lo devono fare. Quell'appalto io l'avevo vinto. Era un mio diritto costruire a Soverato. Le mie carte erano tutte in regola. Ma per un cavillo burocratico che tornava a loro favore, mi impedivano di costruire. Mi informai. Mi dissero di rivolgermi a Saverio Damiani, uomo di legge, che mi avrebbe aiutato a far valere questo mio diritto, e andai da lui a Roma. Gli portai carte, documenti, gli spiegai la mia situazione. Fu gentile. Fece una telefonata all'onorevole Puglia e poi mi disse: «Non ci sono problemi, signor Masciari, basta fare un semplice ricorso». E mi indirizzò all'avvocato Aldo Assisi, che già sapeva tutto. «Non ci sono problemi, Masciari, basta fare un semplice ricorso». E dopo il ricorso l'appalto mi venne affidato. Ma fu a questo punto che cominciarono delle vere e proprie richieste di denaro, ma richieste che superavano i normali costi legati all'apertura di una pratica. E la cosa mi fu chiara quando andai da lui per consegnargli una parte di questi soldi e lui mi disse: «No, caro mio, quello che mi hai appena dato serviva agli amici. Io non ci ho ancora guadagnato niente». Gli amici erano un gruppo di politici che mettevano le mani nelle gare d'appalto. Lui era uno di questi, un membro del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria. Stiamo parlando di tangenti. Mi chiedevano vere e proprie tangenti, quantificabili con la percentuale del 6% su ogni appalto. La normalità in un certo ambiente imprenditoriale italiano. Una consulenza si era trasformata in un'estorsione. Stiamo parlando di 'ndrangheta elevata a politica. Pino? Sì? Ma chi te lo fa fare? Tagliela qualche cosa. Ma che ci perdi? Dagli un pezzo di osso, poi tu te lo riprendi da un altro lato. Fai il furbo, fai come tutti e vivi tranquillo. La vita prima di tutto. Ma io il furbo non lo sapevo fare. E dall'altro lato continuavano le pressioni sui miei cantieri, venivano a cercarmi ogni giorno e non trovandomi arrivarono a convocarmi, fissando loro l'appuntamento al concessionario Iveco, tale giorno a tale ora. Si deve fare trovare. Ve lo stiamo dicendo con le buone. Se volete andare avanti dovete fare come gli altri e senza replicare. Il cemento e la carpenteria li andate a prendere dove vi ho detto l'altra volta. I laterizi li andate a prendere da questo e tutto il ferro che vi giova da quest'altro. Per i tubi ci pensiamo noi, così evitate di cercare. Fra un paio di giorni vi presentate e portate 50 milioni. Perché è quello che vi stiamo chiedendo? Non mi venite a dire che vi stiamo trattando male. In poche parole, avrei dovuto pagare per fare finta di lavorare. Gli imprenditori erano loro e la cosa mi sarebbe costata 50 milioni. Il sistema è semplice e viene applicato con tutti. Loro ti tengono d'occhio e se vedono che cammini, che funzioni bene, allora ci devono mettere le mani dentro. Prendono la tua attività e la fanno diventare una lavatrice di denaro sporco. Tu diventi un pupo dentro la tua azienda, un loro dipendente che lavora per riciclare denaro, di cui loro sono forniti in quantità praticamente illimitate. Perché se con i sequestri di persona, anni 70, 80, cercavano di recuperare denaro contante da investire in stupefacenti, adesso che sono passati quegli anni, cercano con l'edilizia di ripulire gli enormi ricavati della cocaina. Guardatela la vostra città. E se vedete venire su palazzoni come funghi, vuoti, nessuno li compra, nessuno li vende, non è crisi, è cocaina fatta a cemento. Da imprenditori collusi al loro servizio. Quei palazzi fanno puzza di sangue. E io non volevo starci. Non potevo sopportare di vedermi schiacciato da un sistema di illegalità che mi impediva di crescere come uomo e come imprenditore. Rifiutai ogni loro richiesta non pagando nulla, neanche una lira. E decisi che avrei trovato il modo per denunciarli. E che lo vuoi cambiare tu, il mondo? Hai visto come hanno fatto saltare in aria a Falcone? No? Questi non sono tempi per fare quello che si vuole. Ma ci mettono sotto a tutti. A te manco ti vedono. Non solo dagli amici, ma anche dalle forze dell'ordine. Le risposte che ottenni furono le stesse. Le persone alle quali avrei dovuto raccontare tutto si vedevano spesso in giro in paese, insieme a pluri indagati per associazione mafiosa. Come potevo fidarmi? Se avessi denunciato le mie parole, sarebbero arrivate in un attimo all'orecchio delle stesse persone dalle quali mi dovevo difendere. Sarebbe stato troppo pericoloso. Bisognava trovare un'altra soluzione. Bisogna fare attenzione a dire certe cose. Ma chi te lo fa fare? La vita è preziosa e non conviene correre certi rischi. Mi servivano prove prima di poter denunciare. Bisogna registrare ogni cosa. Sì, registrare. comprai un piccolo registratore e lo cominciai a portare sempre con me. Prima gli incontri con l'avvocato Aldo Assisi e poi da Damiani, che cominciò ad avanzare richieste sempre più pressanti. Registrai le richieste sui cantieri aperti, sui lavori che avevo svolto precedentemente e anche su quelli futuri. Registrai cose incredibili in quei mesi che per me diventarono un incubo. Trovavo difficoltà e impedimenti ovunque andassi. Forse non ci siamo capiti. Non si può entrare in un territorio nuovo senza le dovute presentazioni. Di fronte ai miei continui rifiuti, loro non cedevano. Subii furti, mi incendiarono garage, danneggiarono le opere in costruzione. Masciari! Se... Mi raccomando! A Mongiana, per due volte di fila, vennero esplosi colpi di lupara contro tutti i miei cantieri aperti. Qua non lavori più se non fai quello che ti diciamo noi. Addirittura le banche, con una connivenza spaventosa, mi interrompevano il credito, consigliandomi inspiegabilmente di rivolgermi agli usurai. Le banche, come avrei fatto a pagare i fornitori e i dipendenti? Avevo almeno 100 operai, 100, il che vuol dire 100 famiglie, 200-300 persone che vivevano grazie a questi lavori. Come avrei fatto a dare loro i soldi che gli spettavano? Come? O paghi, o ci sarà sempre fuoco. Mi facevano una vera e propria guerra. A Satriano, in provincia di Catanzaro, alcuni uomini armati di fucile con il volto coperto si presentarono nei miei cantieri, mettendo in fuga tutti i miei operai. Chi è? Un vero e proprio accerchiamento. Chi è? Pino, tuo fratello è all'ospedale. Come all'ospedale? Che è successo? Niente di grave, non ti preoccupare. Ma che è successo? Gli hanno sparato. Hanno sparato a mio fratello. Lui non c'entrava nulla con me. Non lavorava nelle mie aziende, andava ancora a scuola. Quello era un chiaro avvertimento rivolto a me. L'andrangheta stava alzando il tiro. In quelle condizioni non potevo più lavorare. Dovetti licenziare tutti. A 35 anni, nel pieno delle mie forze, sono stato messo in ginocchio. Sottomessi. E con calma e obbedienza bisogna andare avanti. Ognuno con la propria vita. E deve essere normale, però. Non devi fare quello che vuoi. Se lo fai, corri il rischio di essere notato. E poi ti devono richiamare. E se si espongono al rischio, quello che ti chiedono poi raddoppia. Se alzi la testa, ti fai male. E rimani isolato in un angolo. Gli altri, purtroppo, non ti possono aiutare, perché anche loro hanno una vita e devono dare conto a qualcuno. Forse lo vorrebbero, ma non possono proprio. Se alzi la testa qui, la fine è già scritta. O muori, o non lavori più. L'unica persona che mi era sempre stata vicina era Marisa. La conobbi a Serra San Bruno. Quando la vidi me ne innamorai subito. Occhi azzurri, capelli tutti ricci, biondi. Il suo modo di fare mi colpì subito. Lei si comportava in modo serio, pulito. Me ne innamorai. Dovevo conquistarla in ogni modo. Cominciai con gli appostamenti. Giravo sotto casa sua, di continuo, con la macchina. Consumavo un pieno al giorno per farmi vedere. Ma niente da fare. Lei non si concedeva. Una sera, trascorsi anche la notte di Capodanno sotto casa sua. Con alcuni amici aprimo lo spumante proprio sotto la sua finestra. Dai, Pino, che ora si affaccia? Ma Pino, guarda che si affaccia. Pino si sta affacciando. Guarda che si sta affacciando. Si è affacciata. Pino ti sta guardando. T'ha guardato. Ma vi state guardando. Auguri, Pino! E dopo 2 anni di corteggiamento, finalmente ci fidanzammo. Da allora, tutte le cose della vita le abbiamo vissute insieme. Da questo momento in avanti, la nostra sarà una unica voce. Ci sposammo 1 mese dopo aver licenziato gli ultimi 58 operai. Mi fu vicina anche allora, quando insieme decidemmo che avremmo sfidato a muso duro l'andrangheta per tornare di nuovo padroni delle nostre vite. Era il 1994 e fu il giorno del compleanno di Marisa che decisi di incontrare per la prima volta il comandante della stazione dei carabinieri di Serra San Bruno. Nazareno Lopreiato, persona seria e risoluta, uomo preciso, onesto, fu lui a darmi una mano a ribaltare la situazione, facendo appieno il suo dovere. Erano anni terribili, quegli anni di svolta per il nostro paese. Oltre ad essere stati gli anni sconvolgenti delle morti di Falcone, Borsellino, sono stati anche gli anni in cui nacque la DNA, Direzione Nazionale Antimafia, un organo della Procura Generale che coordina a livello nazionale le indagini relative alla criminalità organizzata. Quanti volevano denunciare adesso? Avrebbero avuto un referente nazionale a cui rivolgersi e non si dovevano più rivolgere alle singole procure. Questo per me fu molto importante, perché in alcuni posti certe denunce non fanno in tempo neanche ad essere firmate, che già si sanno. E fu insieme a Nazareno Lopreiato che decidemmo che la prima cosa da fare sarebbe stata quella di rivolgerci direttamente alla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Era un passo importante, che avrebbe definitivamente cambiato la mia vita e quella di tutta la mia famiglia. E io lo feci, perché questo era quello che si doveva fare. Ma come? Hai chiuso l'azienda? È successo qualcosa? Ottobre 1996, la Mascia Ricostruzioni, la mia azienda, l'azienda che avevo creato con tanta passione e coraggio, fu fatta fallire per un'insolvenza di 134 milioni di lire. Sì, ma io fatturavo decine di miliardi. Ne hanno fatto fallire, è chiaro. Hanno fatto crollare il lavoro che da due generazioni stavamo portando avanti nella nostra terra. Lavoro che mi aveva esposto a contatti con tutti i livelli dell''ndrangheta in Calabria. E le mie parole, le cose che stavo raccontando ai PM fornendo prove e registrazioni, stavano ricostruendo un mondo. Io partivo dal piccolo delinquente locale, per passare ai clan delle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, e da lì alle banche. Perché i capitali dell''ndrangheta passano dagli istituti di credito. E poi c'è la politica. Ed è questo uno degli aspetti più preoccupanti della malavita organizzata calabrese. La chiamano la mafia liquida. Liquida perché è riuscita a insinuarsi ovunque, fino a raggiungere uno stato i cui vertici sono molto, ma molto in alto. È da tanto che non la vediamo in giro. Tutto bene? Ma ci dobbiamo preoccupare? A questo punto la situazione della mia famiglia cominciava a farsi pericolosa. Io uscivo poco in paese, ma quando lo facevo certi personaggi me li ritrovavo ovunque andassi. Mascheri! Mi raccomando! Comparivano, sparivano, si materializzavano come fantasmi. Si cominciava a capire in paese che avevamo denunciato. Facciamo attenzione, mascheri, che il paese è piccolo e le voci corrono. Era agosto e diedero fuoco a una nostra macchina proprio sotto casa. Ci svegliammo nel cuore della notte, eravamo impressionati e in quelle fiamme che vedevamo dall'alto ci sembrava di vedere bruciare in un solo attimo tutta la nostra vita. Signor Mascheri, qui il rischio per la sua famiglia si sta facendo troppo alto. Dobbiamo allontanarla. Stia tranquillo, lei è un imprenditore, potrà continuare ad esserlo. Anche sua moglie continuerà con la sua professione. Signor Mascheri, mi raccomando, non parli con nessuno, nemmeno con i suoi familiari più stretti. Li avviseremo noi e se vorranno potranno far parte del programma anche loro. Riguardo la sua azienda non si preoccupi, in poco tempo sarà revocato anche il fallimento. 6 mesi, al massimo 1 anno, e la faremo rientrare. Sarà seguito, non l'abbandoniamo. Dovevamo abbandonare la Calabria ed entrare nel programma speciale di protezione. Ma noi non sapevamo nemmeno cosa fosse il programma speciale di protezione. Bisognava impacchettare ogni cosa, tutto. Ma nessuno se ne doveva accorgere. Lasciare casa, lavoro, amici, tutto. Ma doveva sembrare una partenza di quelle che ti tengono via per poco tempo. Dove andate? In vacanza. Dove? Dove? Non lo so dove. Da quel momento in avanti dovevamo affidarci alle forze dell'ordine. Affidarci anche fisicamente a loro, donare con fiducia noi stessi, le nostre vite, nelle mani dello Stato. Marisa, io e i nostri figli, Francesco e Ottavia. Francesco aveva 2 anni, Ottavia 1. Erano piccoli così, tutti e due. Quando accesi il motore per partire, capii subito che ci stavamo davvero lasciando alle nostre spalle le nostre vite e i nostri sogni, spiccando un salto nel vuoto. Non pensavo che denunciare volesse dire essere allontanati, perché quello che volevo era rimanere a casa mia, continuare a fare la mia vita. Allontanare me voleva dire allontanare un imprenditore che stava producendo lavoro e sviluppo nella sua terra, in cui c'era un estremo bisogno di muovere l'economia. Eppure mi facevano andare via. Erano questi i pensieri che Marisa e io ci portavamo dentro, mentre i cartelli ai bordi delle strade segnavano l'uscita dalla nostra terra. Direzione nord, destinazione sconosciuta. Io volevo solo giustizia, Chiedevo di poter essere un imprenditore libero e invece mi trovavo in fuga a scappare di nascosto da casa mia, come se il criminale fossi io. Avevo denunciato un sistema enorme, sì. I rischi cui eravamo esposti erano immensi. Rimanere a Serra a San Bruno, forse, avrebbe voluto dire essere uccisi. Queste erano cose che io capivo con la testa. Ma in quelle lunghe pause di silenzio, in cui Marisa e io cercavamo di trovare un senso a tutto ciò, era il cuore che parlava e che sentiva la totale assurdità del fatto che a lasciare la nostra terra dovevamo essere noi, una famiglia onesta che stava pagando la scelta di non abbassare lo sguardo davanti all'andrangheta e alla sua violenza. Marisa era tanto provata, ma non piangeva, non poteva farlo. C'erano i bambini con noi, non se lo poteva permettere, e questo mi addolorava. Soffrivo nel vedere quanta forza era costretta a trovare dentro di sé per affrontare nel migliore dei modi quella situazione. Sapevamo entrambi di essere dalla parte giusta, ma quella domanda continuava ad assillarci. Perché? Perché? Perché eravamo noi a dovercene andare? Perché? Come si fa a combattere la malavita se chi denuncia viene impacchettato e spedito da un'altra parte? Ogni centimetro qui ha un suo padrone. E non si può fare ognuno per conto suo. Ci vuole ordine. Chi si oppone, chi non rispetta le regole, se ne deve andare. Così la smette di influenzare gli altri. Perché se qui si diffonde questa malattia che ognuno può fare quello che vuole, allora le cose cominciano a non funzionare più. E allora in questo caso chi sbaglia si prende e si mette da parte. Ma lo devono vedere anche gli altri, perché la lezione deve valere per tutti. Così quelli che restano, prima di fare una mossa falsa, avranno ben chiara l'immagine di quello che gli succederà. 1663, questo sarà il vostro numero di pratica. NOP, Nucleo Operativo di Protezione, è il braccio operativo del Servizio Centrale di Protezione che regola la vita dei testimoni di giustizia e dei pentiti. Loro si occupano di te. Il pentito si obbliga, con la sottoscrizione del programma, a rispettare le seguenti prescrizioni. Ma come il pentito? Scusi, ma io non sono un pentito. Io sono un testimone di giustizia, io non sono un delinquente. Li ho appena denunciati i delinquenti. Ah, già, mi scusi. Il testimone si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni. Evitare di commettere reati. Ma se li ho appena denunciati i reati, perché dovrei commetterli? Prendere tutte le misure possibili per evitare che altri vengano a conoscenza della vostra situazione. Evitare ogni azione che comporti la rivelazione della vostra identità. Evitare di allontanarvi dalla località protetta. Dove dovremmo andare? Evitare ogni azione che metta in pericolo la sicurezza delle altre persone sottoposte al programma. È vietato rilasciare interviste o dichiarazioni di alcun tipo. Non osservando questi obblighi, sarete prelevati e spostati in altra località. E valuteremo se ci saranno gli estremi per la revoca del programma di protezione. Queste sono le persone che prendono in consegna la tua vita. A loro fai affidamento per tutto. A loro devi chiedere ogni autorizzazione. Viaggiammo per 17 ore. Ci portarono a Ravenna. O meglio, Mezzano di Ravenna. Ci lasciarono in un enorme casolare in mezzo alla campagna. C'era una cucina immensa. Su un mobile un telefono, di cui non dovevamo conoscere il numero e che potevamo usare solo per le chiamate d'emergenza. 112, 118. Altri numeri non ce ne avevano lasciati. La casa era molto sporca. Incontravamo le tracce di chi era passato prima. Forse altri testimoni di giustizia. Forse qualche pentito. Con Marisa abbiamo pulito al meglio una stanza e abbiamo cercato di renderla un po' nostra. Vivevamo come fantasmi. Le nostre giornate passavano in una sorta di prigionia nel mezzo della campagna. Nessuno si faceva vivo. Nessuno ci chiedeva come stavamo. La cosa più vicina era il cimitero del paese. Uno scherzo del destino. Ogni tanto attorno alla cascina sentivamo anche colpi di fucile. perché scoprimmo poi che quella era zona di caccia. Ma anche di questo nessuno ci aveva avvertiti. Ogni colpo era come se ce lo sentissimo sparare addosso. Per un attimo il tempo si fermava e sembrava che quei proiettili fossero rivolti proprio contro di noi. La paura ci perseguitava. A Ravenna dormivamo con i vestiti addosso per combattere il freddo che sentivamo fuori, ma anche dentro. Preparatevi per un trasferimento in altra località segreta. La prassi era questa. Ogni spostamento ci veniva comunicato con pochissimo anticipo. Un'altra fuga, come se fossimo delinquenti costretti ad abbandonare un nascondiglio segreto. Sono i ladri che scappano, i delinquenti che fuggono di notte caricando i propri beni su un furgone. Questo ruolo adesso toccava invece a noi. La vita è fatta di sensazioni, di familiarità con quello che ti circonda, i tuoi cari, i tuoi affetti. E quel passaggio così brusco, dal possedere una casa e un mondo, seppur pericoloso, come quello della nostra terra, a non avere più nulla e vivere in una condizione di perenne fuga, ci metteva in uno stato di profonda debolezza. La località che ci aspettava era Mestre. A dircelo furono i cartelli dello svincolo autostradale. Ci sistemarono nei dintorni della stazione. Zona di traffici e prostituzione, mi sembrava assurdo. Riferì immediatamente ai NOP che quella casa era incompatibile con la nostra condizione. Inoltre in quella città abitavano parenti delle persone che io avevo fatto denunciare. Qui ci mettono un attimo a riconoscermi. 2 o 3 giorni al massimo, poi la spostiamo, non si preoccupi. Vivemmo asserragliati in casa. Ci svegliavamo la mattina con l'unico obiettivo di mangiare per poi tornare a dormire. Le ore erano ognuna uguale all'altra, svuotate di ogni significato. Ogni giorno per noi era un inganno, pieno di noia e oppressione. Anche qui avremmo dovuto passare solo pochi giorni, ma non fu così. Signor Masciari, vedrà che la sua scelta sarà di incoraggiamento per altri. Denunceranno anche loro. Stia tranquillo. Vedrai, Marisa, adesso le cose miglioreranno. Questo è l'inizio, il tempo di organizzarsi, siamo i primi. La verità, non c'era nulla attorno a noi che potesse tranquillizzarci. Non eravamo abituati a quella vita noi. Io lavoravo da quando ero nato. Le mie giornate erano piene di idee, progetti, lavoro manuale. Marisa era una dentista. Aveva aperto uno studio che contava decine di pazienti ogni giorno. Studiava, si aggiornava, seguiva i suoi clienti. Era una professionista che si stava costruendo la carriera per la quale aveva studiato. E allontanarla da quell'attività era una condanna troppo grande. Che cosa ne sarebbe stato di noi? Il suo è un caso anomalo, ma in pochi mesi tutto si aggiusterà. In poco tempo riprenderete le vostre attività e se non vi troverete bene potrete ritornare. Conosciamo bene la realtà dei testimoni di giustizia. Forse però gli unici a conoscere quella realtà eravamo noi. La figura del testimone di giustizia in Italia esiste a partire dal 2001. Prima di allora non esistevano leggi che ne disciplinassero la materia. Pentito e testimone erano la stessa cosa. E questa assenza di leggi la stavamo conoscendo sulla nostra pelle. Cominciavamo a stare male, psicologicamente, ma anche fisicamente. I nostri bambini si ammalavano di continuo, perché percepivano tutta la tensione intorno a loro. Marisa mangiava in maniera sempre più disordinata. Io fumavo tantissimo. Anche a Mestre non ci avevano dato nessun numero diretto a cui chiamare. Solo telefonate di emergenza. Se avete un'emergenza sanitaria, andate in ospedale. Ma sappiate che, se vi rivolgete all'ospedale, sarete nuovamente prelevati e trasferiti in un'altra località, perché verrebbero fuori i vostri nomi e non sareste più sicuri. E se non potevamo usare i nostri nomi e non avevamo generalità di copertura, in caso di emergenza, le domande dei medici, chi siete? Da dove venite? Che cosa avremmo potuto rispondere noi? Per le persone normali, che tutti i giorni possono esibire la propria carta d'identità, questo è un passaggio difficile da capire. Quel semplicissimo gesto per noi era proibito, ma in quel gesto c'era tutta una nostra storia, c'era la nostra identità. Signor Masciari, le indagini stanno andando avanti, le faremo sapere. Chi sta preparando per noi un nuovo ingresso in questa vita? Preparatevi a partire per un'altra località protetta. Destinazione Vicenza. La nostra casa ci mancava, era un'abitazione spaziosa, fornita di tutte le comodità. Era il mio lavoro costruire case, ma dalla notte al mattino tutto quello non c'era più. Dico questo non perché volessi qualcosa in cambio della scelta che ho fatto. Non avevo bisogno né dei soldi né della casa dello Stato. Quello che volevo erano i miei diritti, i miei e quelli della mia famiglia. Ci avevano assicurato che avremmo mantenuto lo stesso tenore di vita precedente. Così non stava succedendo. Che avremmo continuato a lavorare. Così prevede la legge. Così non stava succedendo. L'unica cosa che potevamo fare noi era passare le nostre giornate in un'apatia senza uscita. Ma noi denunciando stavamo aiutando lo Stato. La casa che ci aspettava aveva dell'incredibile. Sembrava un sottoscala. 45 metri quadrati. Metà dei quali occupati da scatole e valigie. In quattro eravamo costretti a vivere in 25 metri quadrati. E adesso cosa succederà? Come cosa succederà? Deve succedere qualcosa. Ma cosa deve succedere? Come cosa? Devono darci dei documenti di copertura per... Ma secondo te cambierà qualcosa? Deve cambiare qualcosa. Deve. Perché sta succedendo questo? Come perché? Il perché io non lo so. So solo che io pretendo giustizia e non meritiamo di essere trattati così. Preparatevi a partire per un'altra località protetta. Ancora una volta destinazione ignota. I nostri figli erano ormai diventati dei pacchi, spostati da una parte all'altra dell'Italia, senza un posto che fosse davvero loro, vivevano isolati, senza la possibilità di avere amici, di incontrare i loro coetanei. A loro era negato tutto, anche il diritto fondamentale di avere un nome e un cognome. Non avrebbero potuto frequentare la scuola, perché non avevano documenti di copertura. E non potevamo iscriverli sicuramente con i loro veri nomi, sarebbe stato troppo pericoloso. Era questo il modo in cui lo Stato si stava occupando di noi? Perché era così lenta la macchina burocratica per darci dei documenti di copertura? Perché? Perché non volevano applicare la legge? Perché? I miei figli devono andare a scuola. Devono. È un loro diritto. Non ho lasciato la mia terra per chiuderli dentro questa gabbia. Purtroppo le questioni di sicurezza lo impediscono. Ma quali questioni di sicurezza? Non ci avete ancora dato documenti di copertura validi per me e la mia famiglia. Andare a scuola è un loro diritto ed è impensabile impedirgli di frequentarla. Allora, dato il caso, potete iscriverli con i loro nomi, ma noi non possiamo autorizzarvi. Li iscriviamo con i loro nomi, ma voi non ci autorizzate. Ma che risposte sono queste? E la nostra sicurezza che fine fa? Dovete pure capirci. Ove mai vi succedesse qualche cosa, noi non possiamo esserne responsabili. Noi non possiamo esserne responsabili. Parole assurde. Ma quel qualcosa che ci poteva succedere era nient'altro che essere ammazzati. Questa registrazione, insieme a molte altre, l'avremmo utilizzata per denunciare quello che ci stava succedendo. Cominciamo a filmare, a fotografare, a registrare ogni cosa, proprio come avevamo fatto in Calabria. Questa avevamo capito che doveva essere la nostra arma di difesa. In Calabria la nostra ribellione era nata perché volevamo essere persone libere, che non sottostanno alle leggi dell''ndrangheta. Ma ora ci trovavamo improvvisamente ad essere prigionieri di qualcos'altro. Prigionieri dello Stato. Buonasera. Buonasera. Potente libretto. Mi scusi, agente, ma non ho documenti. Come non hai documenti? Sì, non ho documenti, ma le posso spiegare. Lei chi è? Io sono... Io non glielo posso dire chi sono. La signora è sua moglie? Sì, mia moglie. Sono i suoi figli? Sì. Mi dia i documenti di sua moglie. Mi scusi, agente, ma non glieli posso esibire. Se mi fa fare una telefonata, però, le chiarisco tutto velocemente. Va bene, telefoni pure. Grazie, agente. Come mi dissero di fare in quei casi, chiamai il mio referente. Il maresciallo della stazione dei carabinieri di Riva del Garda. Mi dissero che l'avrei trovato il giorno successivo. Chiamai l'ufficio dei NOP, ma non mi rispondeva nessuno. Non potevo dargli i miei documenti. Avrei messo a repentaglio la vita della mia famiglia, ci avrebbero spostato di nuovo. Mi scusi, agente, ho con me sia i miei documenti che quelli dell'autovettura. Ma per questioni di reale sicurezza non glieli posso esibire. Va bene, mi segue in caserma. Va bene, agente. La seguo. Se non verrà identificato fisicamente, verrà sottoposto a identificazione con impronte digitali e rilievi fotografici. Abbiamo chiarito la sua posizione. Sì. Mi dica, come mai lei non ha la carta d'identità di copertura? Non ce l'ho perché nessuno me l'ha ancora data. Per questo non ce l'ho. E come mai non gliel'hanno data? Questo io non lo so. So solo che non mi è stata mai consegnata. Come mai non ha la patente? Come mai? Non ho la patente perché nessuno me l'ha ancora data. Nessuno ci ha ancora fornito documenti validi di copertura per me e la mia famiglia. Mi è stato consegnato un documento che riportava la dicitura non valido per l'espatrio, quello che danno ai delinquenti. Ma siccome noi non siamo delinquenti, noi li abbiamo denunciati i delinquenti. Vogliamo che ci vengano forniti documenti validi che ci permettano di continuare a vivere da liberi cittadini come ci è stato detto che sarebbe stato. Soltanto questo vogliamo, i nostri diritti. Perché sua moglie non ha ancora documenti di copertura? Come perché? Ma semplicemente perché nessuno glieli ha ancora dati, soltanto per questo. Tra l'altro mia moglie è un medico dentista e da qualche mese ha cominciato a frequentare uno studio odontoiatrico e l'ha dovuto fare col proprio nome e cognome, così è dovuta andare a lavoro. Ma questo voi non potete farlo. Come no, la cosa mi è stata autorizzata dal servizio centrale di protezione. Col vostro comportamento voi state contravvenendo agli obblighi del servizio. Ma se le sto dicendo che sono stato autorizzato dal servizio centrale di protezione, hanno dato loro l'autorizzazione... Voi dovete adempiere agli obblighi del servizio. Guardi che io adempio ai miei obblighi e le sto dicendo che sono stato autorizzato e la legge prevede che se il testimone viene autorizzato può recare... Ma cosa sta dicendo? Ma come cosa sto dicendo? Non venga a dire a me certe cose. Conosco bene la materia. Ho trattato con decine di pentiti. Ma cosa sta dicendo lei? Io non sono un pentito! Io sono un testimone di giustizia! Ma non la sa neanche lei la differenza, comandante! Lei oggi ha sbagliato persona, ma cosa sta dicendo? Io sono la parte lesa della storia, la parte che è lo Stato che lei deve tutelare! Ma cosa sta dicendo, comandante? Veda che non si fa così! Faremo delle verifiche! Ma che verifiche deve fare, comandante? Non si tratta così una persona e una famiglia che ha dato la propria vita allo Stato! Ed eviti di peggiorare la situazione! Come peggiorarla? Ma cosa sto facendo? Faremo delle verifiche sulla sua posizione e su quella di sua moglie. Provvederemo con un esposto a segnalare che voi avete violato gli obblighi del servizio. Ma come violato? Ma se non ho fatto niente, ma cosa sta Valuteremo dicendo? Valuteremo se ci sono gli estremi per la revoca del programma. Come la revoca del programma? Adesso... Ho due bambini, ma comandante! Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? Mi sentivo come qualcuno che viene punito. Ma io non avevo fatto niente. Salì in macchina e chiusi lo sportello. Marisa e i bambini erano impietriti. Erano passate ore e loro mi avevano aspettato in macchina e al freddo. Tornammo a casa senza dire una parola quella sera. Devi fare attenzione. E se ti tolgono la protezione, come fai? Ma come mi tolgono la protezione? Ma non possono, ci sono i bambini, ci sono i processi ancora aperti. Perché dovrei... Se non rispetti gli obblighi del servizio, ti revocano il programma. Ma io li rispetto i miei obblighi, ma cosa sto facendo? E se metti a repentaglio la vita dei tuoi figli, possono decidere di toglierteli i bambini. Come mi tolgono i bambini? Ma che cosa state dicendo? Evitare ogni azione che metta a rischio la sicurezza delle altre persone sottoposte al programma. La sicurezza? Ma io stavo andando a comprare un albero di Natale per i miei due bambini! Valuteremo se ci saranno gli estremi per la revoca del programma di protezione. La revoca del programma? Ma che cosa volete? Guardati da chiunque. Siete solo numeri per loro. E vi possono cancellare da un momento all'altro. Qui bisogna fare attenzione a ogni movimento. Aprile 1999 scatta l'operazione Mangusta 2. Le mie parole portano all'arresto di 42 persone. Una grande operazione che coinvolge l'andrangheta delle quattro province. Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria. Le mie parole fanno tremare la Calabria. Cominciano finalmente i processi. A questo punto la mia presenza è fondamentale. Nessuna deposizione viene ritenuta valida se non è ripetuta in aula. E poi io volevo esserci. Testimoniare con la presenza fisica, guardarli in faccia. Questo confermava la scelta fatta in partenza. Ma le informative che il servizio di sicurezza esibiva dicevano espressamente che per me e la mia famiglia vi erano seri e gravi pericoli di vita. Quindi potevo recarmi in Calabria solo per il tempo necessario alle deposizioni. Nient'altro che questo tempo. L'epoca dei processi fu senza dubbio la peggiore. Venivo prelevato dalla località protetta e portato in Calabria. Partivo 3-4 volte al mese, stavo via giorni e Marisa rimaneva da sola. Con i bambini, in un luogo a lei sconosciuto, senza scorta, senza protezione. E noi facevamo 12-14 ore di macchina, viaggi nei quali succedeva di tutto. Ogni viaggio ha avuto una storia e non è mai andato tutto liscio come avrebbe dovuto. Siamo in autostrada. Una macchina ci segue già da un po'. Caposcorta, sì? Caposcorta, ci stanno seguendo? Forse sì. Poco dopo una macchina ci affianca. A bordo c'erano tre persone, guardarono dentro l'abitacolo e ci superarono. La macchina si posizionò davanti a noi, la scorta cominciò a scaldarsi, la situazione della nostra macchina cominciò a farsi tesa. Questi sono momenti delicati, non sai mai cosa fare, stai in apnea, non sai cosa pensare, non sai nulla. Caposcorta, cosa sta succedendo? La macchina era posizionata davanti, azionava ripetutamente gli stop. Poco dopo un'altra macchina ci affianca. A bordo c'erano tre persone che in quei momenti lunghissimi mi guardarono diritti negli occhi. Caposcorta, questi mi stanno guardando. Caposcorta, questi mi hanno riconosciuto. Questi sono segnali. La prima auto arriva e si riconosce. La seconda si posiziona e esegue. Caposcorta, facciamo qualcosa. La scorta estrasse la pistola mettendo il colpo in canna. Tutti avevamo il colpo in canna. Non sapevamo che cosa pensare. Caposcorta, cosa dobbiamo fare? Ad un certo punto il caposcorta ordinò velocemente all'autista di prendere il primo svincolo senza usare la freccia. Uscimmo velocemente e ci dirigemmo alla prima stazione dei carabinieri, dove il caposcorta pretese vetture staffetta e un'auto blindata per il residuo tratto di strada. In questi momenti è tremendo, perché in questi momenti chiunque può essere il tuo assassino, ma tu non lo sai, perché tu non sai niente. Siamo nel 2003, dovevo deporre a Crotone. La scorta mi condusse in un residence che si chiamava Casa Rossa, un villaggio vacanze, a novembre, che vista la stagione era praticamente a mezzo servizio. Il posto è troppo isolato. Dissero che era tardi e non si poteva cambiare. Passai la notte senza che potessi chiudere occhio. Pensare a Marisa, ai bambini, era una preoccupazione che mi assillava. Entrambi da soli, entrambi agli estremi dell'Italia. Sapevo che con i processi la situazione della mia famiglia sarebbe peggiorata. Gli arresti avevano reso evidente quale fosse il peso delle mie parole. Arresti anche eccellenti. E adesso ero a Crotone, in terra di 'Ndrangheta, nel territorio di una delle famiglie più pericolose della Calabria, i cui capi io avevo fatto arrestare. Alle 8 del mattino la mia scorta mi lasciò. Loro facevano ritorno in località protetta e io rimanevo lì, da solo, ad aspettare i militari di Crotone che mi avrebbero preso in consegna. Ma le ore passavano e non arrivava nessuno. Nessuno, da solo, chiuso in camera, a Crotone, registrato con il mio nome e cognome, poco prima di una mia deposizione per un processo importantissimo che stava per cominciare. Qualcosa non stava funzionando. Con Marisa ci sentivamo il più possibile. Dai luoghi in cui mi trovavo le raccontavo ogni cosa, in modo che se mi fosse successo qualcosa sarebbe stato alla luce del sole. Mandavamo fax, lettere, sia al ministero che alle persone a noi vicine. Dovevo telefonare. Cominciai a chiamare, chiamai amici, notai, avvocati, tutti. Sono a Crotone, da solo, registrato con il mio nome e cognome. Non ho denunciato un delinquente qualunque. Io ho fatto arrestare gli Arena d'Isola di Capo Rizzuto, una delle famiglie più spietate della Calabria. Bisogna fare attenzione. Qualcosa non sta funzionando. Più di qualcosa non sta funzionando. Tutto non sta funzionando. Perché mi hanno lasciato qua dentro? Perché proprio qua? Qui non c'è nessuno ed è un posto isolato. Appunto! Qui c'è qualcosa che non va, qualcosa non sta funzionando. Cerca di riflettere su quello che ti sta succedendo. Io rifletto, io domani devo andare a testimoniare. E perché ti hanno portato in un posto come questo? Perché qua sono solo. Appunto, e se ti succede qualcosa, non c'è nessuno che potrà aiutarti. Non vogliono farmi testimoniare. Qui ti hanno abbandonato. Chi è? Chi è? Tenente Battaglia, siamo venuti a prelevarla per portarla al processo. Mi faccia vedere il tesserino! Nessuno mi aveva dato dei nomi di riferimento. Come faccio a sapere che siete voi? Quante persone sono state uccise da uomini camuffati da forze dell'ordine? Era davvero il tenente Battaglia. Ma poteva essere chiunque! Era chiaro che dovesse esserci una regia. Qualcuno non voleva che io andassi ai processi e ogni volta provava a dissuadermi utilizzando questi sistemi. Per anni hanno utilizzato questi sistemi. Potevano essere tante le persone interessate a non farmi deporre. Nelle mie dichiarazioni, oltre ai semplici delinquenti, venivano coinvolti molti uomini di potere. E se ti avessero allontanato dalla Calabria per punizione? Come per punizione? Non ci si ribella all'andrangheta. E chi lo fa, paga. In questo clima di frustrazione e incertezza, Marisa e io continuavamo ad andare avanti, prostrati ma mai sconfitti. Denunciavamo ogni mancanza, ogni incongruenza, ogni situazione in cui il servizio di protezione ci aveva abbandonati. Lo facevamo per noi, per i nostri figli e per gli altri testimoni di giustizia che in quegli anni abbiamo conosciuto. La battaglia che stavamo portando avanti doveva essere anche per loro. Cominciamo a ribellarci in ogni modo, a studiare ogni cosa, ogni legge, tutte le loro leggi. E se questa parte dello Stato ci aveva abbandonati, avremmo denunciato lo Stato allo Stato, fornendo prove di quello che eravamo costretti a vivere. Ci ribellammo in ogni modo. Comunicammo che saremmo rientrati in Calabria. Tornavo a fare l'imprenditore. Mia moglie tornava a fare il medico, a costo di morire. Ma il Ministero dell'Interno ci proibiva di fare il rientro in Calabria. La Calabria per noi era terra proibita. In poche parole, siamo stati esiliati, esiliati dalla nostra terra. Ci avevano fatto capire che per essere sicuri e protetti dovevamo stare chiusi in casa, senza muoverci. Se non esci non cadi, se non esci non ti fai male. Meno ti esponi, meno pericoli affronti. Così noi, così i nostri figli, privarci della libertà. Ma che Stato è? Uno Stato che mette i propri cittadini onesti nella condizione di essere dei fantasmi e di dover perdere tutto, anche la cittadinanza. Ma per loro noi eravamo solo dei polemici. Chi è? Nope, dobbiamo notificarle un atto. 5 novembre del 2004, non erano mai venuti di sera. Si tratta di una notifica urgente. In quella notifica, fatta arrivare addirittura da Roma in aereo e poi velocemente in macchina, mi si comunicava che il 17 marzo 2005, 6 mesi dopo, sarebbe cessata in modo definitivo la mia protezione attraverso il programma. Ma se appena 3 mesi prima c'era stato proibito di fare rientro in Calabria perché il rischio per noi era altissimo, perché adesso ci veniva improvvisamente revocato il programma? Perché? Sopra di noi c'era un piano per farci sparire. Stavamo dando troppo fastidio. Un piano manovrato dall'alto. Ci stavano buttando in mezzo a una strada. Ci stavano dando, facendo così, in pasto all'andrangheta. E noi non ci stavamo. Non me lo potevo permettere. Ne valeva della vita dei miei figli, di quella di Marisa, della mia. Ne parlai con le persone che mi erano vicine e feci urgentemente istanza per essere sentito in commissione parlamentare antimafia. Mi ricevettero alla commissione testimoni. Noi non siamo numeri. Noi siamo persone. Siamo un medico, un imprenditore, siamo una famiglia. Non possiamo essere gestiti come una prassi applicativa. Noi non siamo un fascicolo. Siamo esseri umani. Noi abbiamo denunciato. Noi abbiamo fatto nomi e cognomi e siamo stati deportati. Sono venuti a mezzanotte a casa nostra, hanno caricato tutta la nostra vita su un furgone. È diventata una vita fatta di pacchi, pacchettini. Prima avevamo una direzione chiara, precisa da seguire. La nostra vita, la nostra terra, i nostri figli, i nostri sogni. E improvvisamente siamo andati verso una destinazione sconosciuta. Così noi, così gli altri testimoni di giustizia, siamo diventati nessuno. Siamo morti, morti vivi, in attesa di giustizia. Siamo stati isolati, ma noi denunciando abbiamo rotto il muro dell'omertà di una terra che non vuole parlare e non parlerà mai se i testimoni di giustizia continueranno ad essere trattati così. Chi denuncia non deve essere isolato, perché l'isolamento significa la sconfitta, significa la vittoria delle mafie. Chi denuncia deve rimanere a casa propria e deve lavorare più di prima per dare un segnale forte e chiaro che questa deve essere la via, perché non abbiamo altra scelta. Non dovevamo essere noi ad andarcene, devono andarsene via loro dalla nostra bellissima terra che gronda sangue e ci sta chiedendo aiuto. Devono andarsene via!